Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E poi i bambini crescono, vanno a scuola, incontrano amici e arrivati a una certa età, soprattutto o forse solo per noi ragazze, si comincia a puntare al primo evento importante, che non è il diploma o la laurea, ma la festa dei 18 anni. Oggi non è una giornata qualsiasi. Oggi è il 24 di dicembre. Avrei voluto dire un lunedì qualsiasi, ma non è così. Oggi è una giornata particolare perché, oltre a essere la vigilia di Natale, vabbè, tant'è, adesso ne parleremo con calma, perché oggi probabilmente all'ascolto di questo programma ci sono persone che abitualmente non lo sono. Perché questo programma, che va in onda in quest'ora qua, tra le 16 e le 16.45, è difficile da ascoltare per uno che fa un lavoro per cui è in un ufficio oppure ha qualsiasi mansione sia, ma è banalmente al lavoro. Quindi, a meno che non si sia in auto o non si facciano mestieri in cui uno possa tenere la radio accesa nel proprio studio, in casa sua o dove lavora, probabilmente in questo momento le persone che non hanno mai sentito questo programma capiranno di cosa si tratta. È un programma in cui ogni giorno si racconta una storia, ogni giorno si racconta un episodio particolare della vita degli ascoltatori. Visto che voi oggi siete, anche se non l'avete mai fatto, degli ascoltatori, se avete voglia di partecipare a questo programma, è molto semplice. Scrivete un episodio della vostra vita, qualsiasi cosa vi sia accaduta, che parli d'amore, d'amicizia, di lavoro, di viaggio, ma che sia un piccolo episodio particolare che racconta qualcosa di voi, in una pagina e mezzo, e inviatelo a Voi Siete Qui, @radio24.it. Questo programma è fatto così, questo programma si chiama Voi Siete Qui. Buongiorno a tutti, buona vigilia di Natale. Oggi si parla di vigilia, non della vigilia di Natale esclusivamente, ma di qualsiasi vigilia della vostra vita che sia stata rovinata da un episodio. 349-238-6666 per gli sms in diretta, oppure se avete un profilo Facebook aperto è Voi Siete Qui Radio 24. Tutto perché Martina, che è l'ascoltatrice protagonista della puntata di oggi, tempo fa, durante una vigilia del suo compleanno, la vide rovinata per un motivo che adesso capirete qual era. E sembrava che la vita fosse terminata. È vero che aveva 18 anni e a 18 anni sembra che la vita finisca per pochissimo. Però di fatto quel giorno lì, la vigilia del suo compleanno, fu quantomeno spaventata. 349-238-6666. Giulia, per rimanere in ambito di feste e di vigilia di feste, Giulia scrive sul profilo Facebook: la vigilia del ballo delle debuttanti fu terribile. Esiste ancora il ballo delle debuttanti, ragazzi? Esiste ancora? Anche Filippo Oreggi esiste davvero? Avevo 17 anni, ero stata selezionata. Ah, perché devi essere selezionata per partecipare. Margherita Ina, ne sai qualcosa? Mai partecipato a un ballo dei debuttanti? Una sua compagna. Paghi per andare al ballo delle debuttanti? Vabbè. Stiamo da Giulia, 17 anni, selezionata per partecipare al ballo delle debuttanti, che aveva il sapore di un antico rituale in stile principessa Sissi. Ma mia madre scoprì un mozzicone di sigaretta in bagno e pensò che a fumare fossi stata io, mentre il responsabile era mio fratello più piccolo. Piansi per tutto il giorno perché lei mi impedì di andarci. 349-238-6666. Si parla di vigilie e di vigilie rovinate da un evento. L'evento di Martina fu rovinato, pensate un po', da un locale che rimase chiuso. Sono nata il 23 di dicembre. Dovevo venire al mondo intorno a metà dicembre del 1990, ma si sa come sono fatti i bambini. A loro piace stare al caldo. Così io ho ben pensato di fare un regalo di Natale ai miei e soprattutto a mia madre, con 20 ore di travaglio che ancora mi rinfaccia. Poi i bambini crescono, vanno a scuola, incontrano amici e, arrivati a una certa età, soprattutto o forse solo per noi ragazze, si comincia a puntare al primo evento importante, che non è il diploma e non è la laurea, è la festa dei 18 anni. La prima festa in abito elegante. La prima festa in cui si ha l'occasione di essere la regina del ballo. Sì, insomma, anche se sei la più sfigata della scuola, a quella festa troverai comunque il modo per farti notare. La festa dei 18 anni è importante, soprattutto penso per le ragazze, perché comunque è il primo momento in cui si è al centro dell'attenzione, si ha l'occasione di essere, diciamo, le principesse del ballo. Ecco, non che io fossi la più sfigata della scuola, intendo, o almeno spero. Ad ogni modo, la mia festa dei 18 anni si sarebbe festeggiata il 23 dicembre, precisa e puntuale come ogni anno. Avevo cominciato a progettarla un anno prima. La decisione più difficile era stato il luogo. Sapete com'è, no? Le persone si incontrano in giro per il mondo, poi scoprono che abitano nella stessa città. Io abito a Roma, e tu? Ma dai, anche io. Ma possibile che non ci siamo mai incontrati? Com'è piccolo il mondo? Sì, il mondo è piccolo, ma Roma no. Cioè, a Roma ci metti un'ora per arrivare nella zona diametralmente opposta a quella dove ti trovi. E mia madre ha pensato bene di mandarmi a scuola proprio lì, in quella zona diametralmente opposta a casa nostra, anche se in realtà poi la ringrazio per averlo fatto. Quindi la festa non si poteva organizzare vicino a casa. Martina, non ci far fare i chilometri, ti prego, dicevano i miei compagni. Poi finalmente, un mese prima, lo trovo. Il locale perfetto. Molto adatto a me. Uno di quei locali che hanno uno stile un po' antico, con le volte molto alte e spazi immensi, da gestire come meglio puoi. Già lo immaginavo pronto, con candele sui tavolini, luci soffuse. Perfetto. Lo fermiamo con un acconto, come si fa sempre in questi casi, e ci accordiamo per definire i dettagli a ridosso della data. Preparo a mano quella cinquantina di biglietti di invito con una calligrafia impeccabile. Me la cavo abbastanza bene con i lavori creativi. È venerdì 19 dicembre. A scuola c'è assemblea. Alle 11 si esce. Decido di andare al locale per confermare tutto. Percorro via delle botteghe oscure, quasi tutta, fino a Largo Argentina. E qui resto spiazzata. Il locale è chiuso. È chiuso di venerdì 19 dicembre, a pranzo, in pieno centro a Roma. Penso che forse è a riposo. Chiamo mia mamma, le racconto il fatto, ma non ci facciamo prendere dal panico. Più tardi proveremo a chiamare. Il giorno dopo ancora. E ancora, il sabato ci riproviamo. Ci dicono che i proprietari sono fuori, ma torneranno in serata. In serata, nulla. A quel punto mia madre comincia a muoversi, a fare ricerche, a cercare di capire perché, a 3 giorni dalla festa, non ci fosse modo di parlare coi responsabili. E poi, la doccia fredda. Signora, il locale è stato chiuso per problemi con la questura. I proprietari sono spariti. Perfetto. Il 22 di dicembre eravamo pronti come saremmo potuti esserlo il 23 di agosto. Era saltato tutto. Con il piccolo dettaglio che ormai scarpe e vestiti c'erano. C'erano gli invitati, ma non si sapeva né dove né come metterli. Di lì una rocambolesca giornata alla ricerca di un posto alternativo. I locali in centro tutti pieni o troppo piccoli. E dopo ore di ricerche il locale lo abbiamo trovato sotto casa, proprio dietro l'angolo. E mi spiace per loro, ma i chilometri i miei amici avrebbero dovuto farseli. Allora, la festa riesce bene nel momento in cui gli invitati si sentono a loro agio, ma non solo sono felici, riescono a divertirsi, a intrattenersi l'uno con l'altro e a scambiare delle emozioni che poi rimangono nel pensiero di tutti i giorni. Il locale aveva un nome quasi profetico, Flux 23 o Flux 23. La festa doveva esserci e quel posto sarebbe stato perfetto, anche se non c'entrava proprio nulla con l'altro. Mi sono trovata a mandare centinaia di messaggi e fare decine di telefonate, tra spiegazioni e conferme dell'ultimo secondo. Poi il 23 è arrivato. E quella festa di certo non posso scordarla. Avete presente Il Milionario? Sì, sì, il gioco che fa Gerry Scotti su Canale 5. Gli invitati sono stati divisi a squadre e rispondevano a domande su quel genere lì. La mia migliore amica ha vinto addirittura un cellulare. Ora non so se il locale che originariamente doveva ospitare il mio 18° compleanno abbia riaperto con quella gestione, ma io la mia festa l'ho avuta e li ringrazio, perché da allora solo festa in casa. La vigilia è il giorno prima di qualsiasi cosa. È ad esempio il giorno prima di una partita, di un esame, di un parto, di una tempesta, oppure di una festa. Però la vigilia, cioè la vigilia e basta, per tutti è solo la vigilia di Natale. È oggi. La storia di Martina, per dirla tutta, e per dirla bene, è ambientata il giorno prima della vigilia di Natale, cioè l'antivigilia, il 23 di dicembre, giorno del suo compleanno. Tutto però si svolge il 22 di dicembre, cioè la vigilia del suo compleanno. So che sembra un casino detta così, ma è molto più semplice di come sembri. Dunque, è il giorno prima del suo 18° compleanno e Martina, che ha organizzato ogni dettaglio per la festa, vede svanire tutto perché il locale prescelto è stato chiuso e i proprietari spariti. Improvvisamente il mondo crolla. E crolla come riesce a crollare solo quando si hanno 18 anni e si immaginano le facce degli amici, o le voci che circoleranno nei corridoi della scuola, e tutti per sempre si ricorderanno dell'orribile figuraccia che hai fatto per quella festa andata in fumo. Sembra una questione di priorità, ma non è solo quello. Perché è vero che in età diverse, cose diverse acquistano diversa importanza, ma la sensazione è che a qualsiasi età e in qualsiasi situazione, la vigilia si carichi di una tensione che il giorno dopo, quello in questione, non ha. Il giorno prima di un esame sembra inaffrontabile. Ricordo che mi sentivo sempre totalmente impreparato. Immaginavo strategie di fuga o di azione prima degli esami. Cercavo di memorizzare concetti immemorizzabili, prendevo caffè su caffè, che di solito non ne bevo, per affrontare la notte insonne. E quando il giorno dopo io arrivavo in università, che andasse bene o andasse male, la sensazione alla fine era sempre: beh, tutto qui. Ma se ripenso anche alla vigilia di un appuntamento importante, no? D'amore o di lavoro, vale lo stesso ragionamento. Il giorno prima è sempre stato pieno di tensione e di aspettative, per cui lei sembrava sempre troppo bella, inarrivabile. E io sarei stato incapace di argomentare qualsiasi cosa e me ne sarei andato con un pugno di mosche. Oppure il mio interlocutore al colloquio di lavoro mi avrebbe chiesto cose alle quali non avrei mai saputo rispondere e sarei stato sbaragliato da qualsiasi altro candidato a quel posto di lavoro. E poi invece il giorno dopo, quello dell'appuntamento o del colloquio era sempre meno di quanto temessi o mi aspettassi, per cui lei era meno spaventosa, era meno inarrivabile e spesso anche meno bella di come me la ero sempre immaginata. E invece lui, il selezionatore dell'azienda, era meno cattivo, era meno rigido. La vigilia ha il potere di rendere tutto più grande, più spaventoso, più terribile e spesso anche più bello ed entusiasmante di come ci si immagini. Ma quello si chiama il sabato del villaggio, quindi non sto qui a dirvelo perché c'è qualcuno che ha descritto quella sensazione in maniera sublime. La cosa però che mi stupisce di più delle vigilie è la loro incapacità di educarci, perché non si impara mai dalle vigilie. Da un anno all'altro, da una volta all'altra, ogni vigilia è sempre la prima vigilia che viviamo. And the song of mine in three quarter time wishes you and yours the same thing too. 349-238-6666 è la vigilia di Natale. Questa vigilia di Natale del 2012 è quella in cui state ascoltando questo programma, ma avrete avuto una vigilia non solo di Natale, che è stata orribile perché magari è accaduto qualcosa che non doveva accadere, perché come ad Antonio, Antonio scrive sul profilo Facebook: la vigilia del mio primo colloquio di lavoro, pensavo che tutto sarebbe dipeso da quell'incontro e che il risultato di quel colloquio avrebbe rovinato o reso splendida la mia vita. Tutte le altre vigilie sono state molto meno problematiche. Ecco, Antonio qualcosa l'ha imparato da quella vigilia. Non so cosa abbia imparato invece Martina, che si è rovinata la vigilia del suo compleanno perché saltò tutto e non era un compleanno qualunque, era quello dei suoi 18. Pronto Martina? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tutto a posto, grazie. Senti, dove sei la vigilia di Natale del 2012? Cosa stai facendo in questo momento? Regali, in casa? In questo momento sono a casa che mi sto preparando la consueta cena con gli zii, i nonni e il cenone della vigilia, ecco. Voi, scusa, domanda di rito ovviamente noiosa, ma è di rito e quindi si fa. Voi cosa fate, la vigilia o il giorno di Natale, il pranzo? Noi facciamo la vigilia dalla sorella di mia mamma e quindi con la famiglia, diciamo, di mia mamma, e poi invece Natale a casa noi quattro. Starei ore a sentire che cosa fa la gente il giorno di Natale, se fa sempre la vigilia oppure il giorno stesso, ma chi se ne frega, andiamo a quel giorno là. Martina, innanzitutto tu adesso hai 21 anni, giusto? 22 quindi giusto, auguri a proposito, auguri. Grazie. Per il compleanno. Quindi accadeva tutto 3 anni fa. Sì, 3 anni fa. Giusto. Allora, una persona che probabilmente non... 4 anni fa, no Matteo, 4. 4, scusami, certo, 18, 22. Una persona che forse non abita in una città, adesso non so, prova ad immaginare, e che o semplicemente che non è abituata a festeggiare 18 anni, ascoltando questa storia dice... ammazza, ma tutto questo delirio per una festa di 18 anni. Invece, Martina, quanto è importante per una ragazza di 18 anni nel 2008 sì. compierli facendo una festa come quella? Quanto e perché, se si riesce a spiegare? Ma guarda, io in realtà non ho mai fatto una grande festa in generale, quindi quell'anno per me era l'occasione un po' di rivalermi su tutte le feste che non avevo fatto in grande stile. Poi io ho sempre avuto un po' questa passione per i temi un po' particolari e la festa dei 18 anni era l'occasione, insomma, per mettermi un po' al centro dell'attenzione. Quindi scusami, quella aveva un tema quella festa? Beh, tema in realtà no, era tutto molto classico perché era al centro di Roma, via delle Botteghe Oscure, che è tra Piazza Venezia e Largo Argentina, per cui era tutto un po' classico, anche il vestito richiamava un po' questo stile classico. Scusami, è solo che mi viene da sorridere perché immaginando una festa in stile classico a Roma, mi immagino subito quelle feste di cui in autunno si parlava, di gente che appariva vestita da antico romano, ma immagino che non fosse quello, diciamo, il tono. No, però ecco, è tutto molto elegante, un po' stile, un po', scusami, ti ho perso. Vecchio stile. Martina, tra l'altro, per chi non se la ricordasse, ha già partecipato la scorsa stagione di Voi Siete Qui, giusto Martina? Correggimi se sbaglio. Sì. Con la storia che parlava di immersioni subacquee, perché tu hai questa passione. Continua la passione? Continua la passione. Quest'anno siamo stati in Egitto e abbiamo fatto delle bellissime immersioni nel Mar Rosso. Vabbè, lì è tutt'altra storia. Senti, invece andiamo un attimo al rapporto con la madre. Tu sai che la vita di ognuno di noi, che abbiamo 5 o 85 anni, è segnata dal rapporto con la madre. C'è un passaggio del tuo racconto che mi è rimasto impresso e su cui vorrei tornare. Quando tu dici che tua mamma ancora ti rinfaccia le 20 ore di travaglio. Tua mamma sa che tutto questo costerà milioni di euro in analisti, ovviamente. Rinfacciare alla propria figlia di averla fatta soffrire per 20 ore. Oddio, speriamo di no. Spero veramente di no, comunque in realtà ho un bel rapporto con mia mamma, niente di drammatico o traumatico, ecco. Però ecco, quando c'è da risolvere un problema c'è sempre la mamma a cui ricorrere in queste cose, anche ecco, per avere 18 anni, senza di lei non so come avrei fatto a risolvere tutto questo ambaradame che si era creato. Martina, senti, invece scusami, non so quanto sia diverso tra i 18 e i 22, ma questa è una curiosità che mi è nata quando qualche tempo fa ho fatto un incontro in una scuola con dei ragazzi di 17 anni e parlando di quanto loro scrivessero e soprattutto che cosa scrivessero maggiormente, tutti mi hanno risposto SMS, e questo vabbè era prevedibile. Anche tu dici che passi quella giornata lì a mandare SMS per spiegare che la festa è stata spostata, va bene, ma la cosa che mi ha stupito dell'incontro con i ragazzi è che quando gli ho chiesto quanti SMS scrivete al giorno, loro mi hanno risposto dai 50 ai 100. Adesso ne hai 22 di anni, quanti SMS mandano ragazzi intorno ai 20 anni al giorno? Tanti, veramente tanti, però in realtà adesso con l'instant messaging, quindi non so, WhatsApp, Facebook, sì, penso siano anche moltiplicati, penso il numero in maniera esponenziale. Ma facendo una media, secondo te, sono oltre 50 messaggi al giorno? Sì, sicuramente. Cioè sicuramente sì, tra WhatsApp, messaggini, Skype, sì. Messenger... Sì, sì. Qui, assolutamente più di 50. Assolutamente, quindi sfioriamo i 100. Quindi figuriamoci per Natale, adesso siamo oltre i 300 probabilmente, considerate gli auguri. Sì, beh, Natale, poi arrivano messaggi da persone che non senti magari da anni, non so, compagni di liceo che io purtroppo ho smesso di sentire, ma escono fuori questi messaggi e dici, ma forse hanno fatto invio a tutta la rubrica, non lo so. Senti, e poi ti lascio, adesso è Natale, immagino tu non stia studiando, non stia preparando nulla, però mi ricordi cosa studi, Martina? Studio economia, quindi abbiamo insomma la futura classe dirigente italiana. Martina, ti ringrazio. Vediamo. Ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera, il racconto. Buon Natale, in bocca al lupo per tutto. Buon Natale anche a voi. Grazie. Ciao, grazie mille. 349-238-6666. Antonella scrive: la mia peggior vigilia è questa qui, ma l'anno scorso pensavo fosse quella là e l'anno prima quella ancora. Oh, Antonella, non ne va bene una. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Sta ovviamente tagliando una torta di compleanno Martina nella foto che ci ha mandato, che trovate anche oggi, anche la vigilia di Natale, sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Però mi diceva Margherita che non è la torta di compleanno di quell'anno lì, ma è quella dell'anno dopo, quindi compiva 19 anni, era sempre il 23 di dicembre ovviamente. Lei è, credo, in casa, alle spalle ha una di... come si chiama questa cosa qua? Vetrocemento, il vetrocemento. C'è una abat-jour e un divano... E un divano, Martina, con un copridivano veramente inguardabile. Una di quelle robe a... come si chiama? Fiori di cashmere si chiama. Avete presente quelle robe arzigogola? Credo si chiami fiori di cashmere. Vabbè, non è colpa, ovviamente non è colpa di Martina. Ma vogliamo dare la colpa alla mamma per le 20 ore di travaglio? No, nemmeno a lei. Semplicemente hanno scelto un copridivano così, per l'occasione abbastanza improbabile. Lei sta tagliando una torta, vi dicevo, su un top rosso. È una bella ragazza, Martina, è una bellissima ragazza. Un vestitino nero. E taglia una torta, attenzione, tenetevi forte, perché avete sentito che parlava di feste a tema. Ebbene, questa torta ha sopra dei dadi, credo di zucchero probabilmente, e mi suggeriva Margherita che Martina le ha detto che la festa era a tema casinò. Vigilia, sostantivo femminile, giorno che precede una solennità religiosa. Estensivo, il giorno o il tempo immediatamente precedente un determinato evento. Letterario, notte trascorsa senza dormire, veglia. Vigilia d'armi nella cavalleria, la veglia del cavaliere prima della vestizione, detta anche veglia d'armi. Etimo dal latino vigilia, proprio veglia, derivato di vigil, vigile, data inizio secolo XIV. E possiamo passare oltre? Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man, tristezza e noia, recheran l'ore e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Scusatemi se vi ho letto il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi così, in una vigilia di Natale qualunque, però visto che l'ho citato prima e al 349-238-6666 qualcuno mi ha detto si cita sempre il sabato del villaggio ma poi nessuno sa cos'è. Non che io sapessi cosa fosse, semplicemente l'avevo studiato a scuola, la professoressa Paola Picorroz me lo fece studiare e racconta in realtà della vigilia della domenica che torna ogni settimana, però insomma vale un po' per tutte le vigilie che sono creano sempre delle aspettative che non sempre vengono confermate il giorno dopo. E questo vale per la puntata di oggi, no? Perché le vigilie che sono addirittura rovinate da qualcosa. Silvio scrive sul profilo Facebook: avevo 16 anni ed ero stato convocato nella prima squadra della società per cui giocavo. Avrei esordito in eccellenza. Ragazzi, eccellenza a 16 anni non è poco, eh? A soli 16 anni, e invece mi feci sospendere a scuola perché sparai un raudo nell'androne durante l'intervallo. Mio padre mi impedì di andare a giocare. Verrebbe da dire come dargli torto, però anche dai, per un raudo sparato nell'androne. Una volta mi ricordo che in un periodo simile a questo, e Tiziano Bonini se lo ricorda, volevano cacciarci da un'altra radio perché in diretta volevamo sparare dei mini raudi. Ti ricordi? Ci dissero no, non si può fare. Io ho detto, ma lei fa... giustamente Filippo Regi dice vorrei vedere che non si può fare, ma era in studio, era un trick e track minuscolo, era tipo perfetto. Cos'era? Forse era per Capodanno, credo. Sì, per una puntata che era di Capodanno. Niente, non ce la fecero sparare, mini mano è ancora qui. Non è detto che per la puntata di Capodanno che era di 24, magari se c'è Filippo senza dirlo a nessuno. Mohammed scrive al 349-238-6666: la mia peggior vigilia è stata quella del 7 marzo del 2004. Aspettavo di vedere i miei genitori tornare a Tunisi dopo 3 anni, ma furono bloccati per via dei documenti. Ora, fortunatamente, in Italia ci sono venuto anch'io. Pietro, la vigilia della mia prima gara di sci fu orribile. Ero talmente agitato che ho vomitato 3 volte senza mangiare nulla. Lì ho capito che non ho né il fisico né la testa per l'agonismo. 349-238-6666. Si continua a parlare di vigilia di Natale. La storia che sto per raccontarvi, però... è la storia, diciamo, è ribaltata, è il chiaroscuro della puntata di oggi, perché è una vigilia ed un Natale che non vengono rovinati, anzi vengono fortunatamente allietati da una buona notizia. È una storia che è arrivata, Voi Siete Qui, @radio24.it, da un'ascoltatrice che però ha chiesto di rimanere anonima. La storia è natalizia, ma non lo è, perché questo avevamo chiesto, e secondo me è splendida. Arrivai a casa il pomeriggio del 25 di dicembre con una borsa piangente sotto il braccio. La borsa, calda e imbottita, conteneva mio figlio, venuto al mondo solo pochi giorni prima. Non era stato un parto facile, anzi. Ma non è di quello che voglio parlare, né mi voglio soffermare sulle gioie della maternità, no. È di infermiere e ostetriche che voglio raccontare oggi. Le stesse che la notte precedente erano passate per le camere, avvisando le puerpere che accanto alla nursery era stato imbandito un rinfresco natalizio. Ci andai. Era notte, non dormivo da giorni, ero a pezzi, provata nel fisico e nell'anima, in attesa di un responso medico sulle condizioni del piccolo, nato qualche giorno prima in sofferenza dopo un travaglio infinito. Eppure ci andai, in vestaglia. Era rossa, orribile a ripensarci. Troppo lunga e troppo calda, in quel luogo già di per sé surriscaldato. Ai piedi un paio di ciabattine, dalle quali spuntavano delle calzette bianche e rosse, strette per i miei piedi gonfi. A un party, io che lavoravo in un'agenzia di pubblicità, dove tacchi e tailleur erano d'obbligo, conciata così, mai e poi mai avrei immaginato di presentarmi. Eppure, nonostante tutto, ci andai. E in quella stanzetta, tra lettighe e carrelli per la rianimazione, spostati lungo le pareti per fare un posto a un paio di tavolinetti su cui troneggiavano due panettoni tagliati a fette, una bottiglia di spumante da pochi soldi, un bricco di quel tè troppo zuccherato, tipico degli ospedali, io sono tornata alla realtà. Dopo giorni di esami, iniezioni, visite, attesa, dolore, paure, giorni senza luogo e soprattutto senza tempo, quel gruppetto sparuto di donne, molte delle quali spettinate, stanche e in camicia da notte, che si scambiavano sorrisi, brindando coi bicchieri di carta, mi riportava alla realtà, alla coscienza che quella era la notte della vigilia di Natale, la prima della mia vita da madre perché avevo appena avuto un bambino. E che qualunque fosse stato l'esito della visita neurologica che lo attendeva di lì a poco, quel mucchietto di ossa e pelle rugosa sarebbe stato comunque mio figlio. Bevi un sorso di tè, sbocconcellai una fetta di panettone, scambiai due parole, ringraziai le infermiere e le ostetriche che avevano organizzato quella festicciola improvvisata e tornai in camera, dove finalmente riuscii a dormire per qualche ora. Il giorno dopo, verso le 15, dimisero me e il piccolo. Era il giorno di Natale. Scortati da un nuovo e altrettanto provato padre, uscimmo al freddo dirigendoci a casa, dove mi aspettavano un mazzo di fiori, l'alberello decorato, le candele accese e la mia famiglia che accoglieva il nuovo arrivato. 36 ore dopo ci comunicarono che la lunga anossia subita dal neonato non aveva causato danni cerebrali e che andava tutto bene. Quest'anno mio figlio compie 10 anni, è appassionato di judo, di videogiochi e di recitazione. E ogni tanto mi chiede di raccontargli della sua nascita. Ma io rimango un po' sul vago e gli rispondo che no, non è stata dolorosa né faticosa, mentre dentro di me sorrido di questa piccola bugia. Ogni anno però, quando arriva Natale, rivolgo un pensiero grato a quelle donne di cui non ricordo neppure un nome, un viso, ma che ha saputo, con poco, spezzare la rete vischiosa dell'angoscia nella quale ero caduta. Chissà perché, io, che non sono credente, penso sempre sia stato un piccolo miracolo. Il più laico dei miracoli, perché è frutto unicamente della calda umanità di quelle lavoratrici, di turno in un giorno nel quale tutte avrebbero voluto essere coi propri cari e non tra le corsie di un ospedale. Eppure loro avevano deciso di salutare il Natale con chi era ricoverato, dando così davvero un senso alla parola auguri. I'll be home for Christmas if only he... Di fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta, altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave. Questo è il finale del Sabato del Villaggio di Giacomo Leopardi, ne abbiamo letti due pezzi invece che uno. Io ringrazio tutti, prima di farlo però e augurarvi una lieta cena della vigilia, Lorella scrive, sicuramente la vigilia del giorno in cui avevo deciso col mio fidanzato che avremmo fatto l'amore per la prima volta, è stata la peggior vigilia di sempre. Ero così spaventata che ho pensato di scappare, poi rimasi e fu quello che fu. Ci lascia in sospeso Lorella. Io ringrazio tutti quelli che anche oggi hanno reso possibile questo programma, in particolar modo Filippa Aureggi, che ha firmato e ha lavorato sul mixer, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Martina, che ha fatto la storia di oggi. Domani è il giorno di Natale, noi in qualche modo anche domani saremo qui, ma questa storia, come vi dicevo, era di Martina, e anche lei finalmente è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Emilio, sono di Bergamo e la storia di domani è la mia. La mia è una storia di una telefonata una mattina di Natale che ha cambiato completamente la mia idea del Natale. Questa è la mia storia e io sono qui.